Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, al microfono Luca Tremolada, sono le 16.08. Un saluto a Luca Dello Iacovo che non è qui con noi, però insomma mi ha dato una mano a organizzare una puntata che è una puntata storica questa. Insomma, oggi proviamo a trovare una soluzione con i nostri ascoltatori su tre grandi rivoluzioni che stanno investendo il mondo del giornalismo, dell'editoria e della musica. Questa grande rivoluzione si chiama internet e insomma, come tutte le rivoluzioni, sono rivoluzioni complesse. Quello che si sta cercando è un equilibrio economico sostenibile tra l'offerta gratuita e il pagamento. C'è una parola che è entrata anche nel dizionario di Oxford, freemium, che insomma racconta il fatto che sempre di più, e lo ha detto la settimana scorsa anche il rapporto del Censi, sempre di più si assumono, si leggono giornali, si leggono notizie, ma non le si pagano. Per cui cosa significa? Che si guarda sempre di più a internet, che si guarda più sul telefonino, che siamo molto più informati di qualche anno fa, però lo facciamo attraverso canali che sono gratis. Ecco perché insomma tutto il mondo si sta un po' domandando come cercare da un lato di far guadagnare gli artisti, nel caso della musica, gli editori, nel caso dei libri, gli editori di giornali, nel caso dei giornali, e non togliere quell'offerta gratuita che invece a quanto pare è un po' il dato importante di questi tempi. Per affrontare questo tema enorme, chiediamo un aiuto agli ascoltatori che ci possono chiamare all'824 0024. La domanda è semplice: cosa siamo disposti a pagare? Siamo disposti a pagare la musica su internet? Siamo disposti a pagare le news online? E lo facciamo con ospiti che abbiamo, con molti ospiti che abbiamo in collegamento, a partire da Francesco Piccinini, direttore di Agoravox. Buongiorno. Buongiorno. Che ha creato su internet un giornale completamente partecipato. Ma sentiamo nella scheda che ha ridato Luca Dello Iacovo di che cosa si tratta. Dalla periferia di Napoli all'insegnamento presso l'École Supérieure, Francesco Piccinini ha 30 anni ed è titolare a Parigi di due cattedre universitarie in comunicazione pubblica e scienza politica. Ma non ha dimenticato la sua passione per il giornalismo. 4 anni fa ha partecipato alla fondazione di Agora Vox, un giornale partecipato su internet. In Italia Agora Vox ha un pubblico di 400.000 persone mensili. Qui i lettori diventano autori, scrivono articoli dalle loro città, poi la redazione centrale li controlla e li pubblica. Chi paga? Le donazioni online e la pubblicità. Ma Francesco Piccinini coltiva un sogno ancora più grande: portare la redazione di Agora Vox a Scampia, per innescare un cambiamento culturale che da internet entri nella vita delle persone. Allora Piccinini, con che cosa aprite oggi il sito? Ecco, in questo momento penso abbiamo ripreso la notizia del giorno, che è quella dell'omicidio-suicidio di Brenda. Già hai detto quello che pensi, hai già lasciato intendere. È un lapsus. No, allora, quello che vogliamo capire è, quindi, l'idea qual è? Un giornale scritto dai lettori. Sì. Non è una cosa semplice. Com'è nata questa idea? Beh, in realtà nasce nel 2005 per un'idea di Carlo Revelli, che è il fondatore, perché vide una discrepanza nel flusso di informazioni tra quello che correva sul web e quello che correva nei media mainstream sul referendum sull'Unione Europea. Praticamente se apriva un telegiornale o si sfogliava un quotidiano, in Francia chiunque avrebbe detto che il referendum sull'Unione Europea sarebbe passato, sulla Costituzione Europea, ma mentre su internet il popolo della rete era completamente in disaccordo con quello che era il flusso di informazione. E infatti poi sappiamo come è andato a finire, cioè il referendum sulla Costituzione Europea non è passato. E da quel momento Carlo Revelli fonda la versione francese. Nel 2008 a settembre apriamo la versione italiana, eccoci qui un anno dopo. Ecco, ma esiste un popolo? Cioè, siamo proprio sicuri che esiste un popolo della rete così, che ha necessità di una rappresentanza e quindi che ha bisogno di un giornale in un certo senso autoreferenziale? In realtà il giornale ha poco di autoreferenziale, nel senso che quello che poi viene volgarmente chiamato il popolo della rete, in realtà è fatto da tante persone che sono dei cittadini, esatto, normali, o anche cittadini che comunque fanno una propria vita all'esterno, che spesso si confrontano anche con personaggi di un certo rilievo. Immagino su Agora Vox spesso firmano gli articoli Giulio Cavalli, che è un attore sotto scorta, piuttosto ieri Salvatore Borsellino. Abbiamo, è proprio questo, è proprio da questo incontro, dialogo, che nasce l'idea di non avere due realtà separate, ma di avere due realtà che si toccano. Perché vabbè, io chiaramente sono, da un certo punto di vista, dall'altra parte, io sono mainstream, no? Certo. Per certi versi, però la cosa che volevo capire è anche come si guadagna da queste, da questo tipo di prodotti. In realtà il guadagno, fino al momento del problema della crisi, la grande crisi che ha colpito un po' tutta l'editoria, ovviamente derivava soprattutto dagli incassi pubblicitari. Che e ora quelli lì sono bassi però un po' ovunque in questo momento. Infatti, e ora, mentre tre ore, il problema è trasversalmente a tutti i media di dei incassi pubblicitari molto molto più bassi, e quindi bisogna trovare nuove forme di finanziamento. Infatti pensavamo proprio in questo momento di abbiamo lanciato l'idea dei don, cioè di fare un giornale in cui i cittadini scrivono, dialogano e poi allo stesso tempo portano avanti attraverso delle micro donazioni affinché il giornale stesso possa esistere. Certo, tra l'altro un ascoltatore ci ha mandato un SMS in cui sottolineava giustamente che insomma il giornale non è esattamente gratis, cioè il collegamento si paga. Ma certo. Non si può partire da lì, cioè sono state delle proposte che hanno fatto arrabbiare ferocemente la rete, tipo proviamo a tassare l'accesso a internet in modo tale che parte del ricavato venga dato agli editori. Da un punto di vista sono, posso anche essere un po' contrario, perché a quel punto mi verrebbe da chiedere perché gli editori sì e che ne so, i blogger, i medio piccoli blog o anche i blog grandi no, perché non so, un qualsiasi quotidiano e un sito che fa informazione fatto, che ne so, potrei fare un esempio come Indymedia per esempio, no. Allora il problema è che in questa cosa è sempre poi dove porre la linea di demarcazione. Accettiamo tutti, quindi ripartiamo gli utili degli incassi su tutti, da una taglia in poi, qual è questa taglia? E soprattutto in base a che cosa? Cioè esatto. In base agli utenti, in esatto. Base al carico pubblicitario? E anche perché poi il discorso è molto più ampio, se lo facciamo in base agli utenti allora c'è chi dirà sì certo, ma questo non rispecchia la qualità, perché evidentemente abbiamo... Beh, certo, se io pubblico determinati argomenti, metto calendari a gogo, esatto. È chiaro che faccio il boom di ascolti, però se basterebbe fare un sito in cui si parli di calendari e calcio molto probabilmente, certo, il che non è sbagliato, però se devo ripartire, devono ripartire anche i miei soldi, che io non sono, lo sono, però non, diciamo che non sono un appassionato di calcio, questo mi dà un po' fastidio. Esatto, vediamo che queste sono le classiche domande che bisognerebbe porsi prima di lanciare delle determinate iniziative, anche perché a quel punto come lo ripartisci solo con le testate, quindi riproponi una sorta di finanziamento di Stato, ma fatto dai provider, oppure lo fai aperto anche altre realtà? Tra l'altro, cioè, un'altra cosa su cui volevo chiederti un parere è, adesso si sta discutendo molto, Murdoch ha minacciato Google di togliere le notizie dai propri giornali dal servizio Google News, insomma vuole il pagamento, proprio nei giorni scorsi il Times Online ha detto che nella primavera del 2010 andrà a pagamento, c'è una grande discussione intorno ai servizi come Google News e gli editori che invece cercano di capire se riescono a fare qualche soldo anche online. Tu cosa ne pensi? Beh, qui il problema è un po' più ampio secondo me, anche perché in realtà un servizio come Google News è un aggregatore e quindi, mentre poi dall'altra parte abbiamo chi produce i contenuti, questo è lo stesso discorso di Google News, allora si potrebbe espandere a altri aggregatori che possono essere lo stesso Wikio piuttosto che Liquida, insomma Dig. Allora il punto è, tutti gli aggregatori non avranno più a disposizione le notizie di Murdoch, semplicemente Google News perché è il più grande. Come vogliamo gestire questo passaggio? Cioè nel senso, Oggi è possibile seriamente tornare indietro a un web a pagamento? Secondo te? Secondo me il problema è un po' più complesso di forse quanto lo potrebbe fare Murdoch. Come si controlla tutto quello che non è strettamente in un sito, come ad esempio potrebbe essere un aggregatore? Cioè, faccio un esempio, io prendo un contenuto di un articolo del Post, del Washington Post, e lo copio e incollo in una nota di Facebook che a quel punto si diffonde sulla rete, o la metto su Twitter ad esempio. Ho avuto e l'ho sortito il mio effetto, o semplicemente basta una persona che si fa l'abbonamento e da quel momento può riprodurre tutti gli articoli ad libitum? Certo, ma questo è, sono un po' questi sono i termini della questione, su cui però non ci sono segnali univoci, almeno noi non ne vediamo. È tutto un laboratorio, come peraltro è un laboratorio quello che sta succedendo nel mondo dei libri. Noi abbiamo in collegamento Valerio Eletti, che è direttore del Master Yelm della Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sentiamo anche per lei una scheda redatta da Luca Dello Jacopo. Una laurea in fisica, l'interesse per la computer graphics e poi l'editoria multimediale. Adesso Valerio Eletti è il direttore del Master Yelm della Sapienza. Si occupa di apprendimento online, pubblicazioni sul web, biblioteche digitali. In particolare indaga sull'evoluzione dei libri dopo l'arrivo di Internet. Un'immensa libreria disponibile per tutti o un calderone che risucchia voracemente ogni cosa. Non mancano le sorprese. I piccoli editori italiani hanno rivelato una capacità di sviluppare modelli di business differenti, adattandosi al mercato. Tanto che ormai si parla dei Magnifici Sette. Sono case editrici specializzate in libri digitali e print on demand. Chi sono questi Magnifici Sette? Sono piccoli e medi editori che hanno preso di petto il problema dell'editoria online, al contrario di quanto stanno facendo i grandi editori italiani. Parliamo naturalmente del panorama italiano, che sono molto arroccati all'interno della loro associazione e stanno a guardare un po' impauriti, un po' titubanti a quello che porta la rete. Io però, prima di magari entrare un po' più nel dettaglio di questi Magnifici Sette. Sette personaggi che hanno sette modelli di business diversi. E infatti volevamo capire anche un po' cosa si sta inventando anche per uscire da questo. No, però prima vorrei solo tornare indietro a quello che stavate dicendo prima, solo per contestualizzare un po' l'argomento di oggi. Se noi andiamo a vedere i testi di Elinor Ostrom, quindi il Nobel dell'Economia 2009, scopriamo che è stata già da 20 anni la teorizzatrice di una terza via della conoscenza come risorsa né pubblica né privata, quindi né Stato né mercato. Praticamente la Ostrom ha preso a modello i commons britannici, quindi le foreste, i beni comuni. I pascoli, eccetera, beni comuni che richiedono una, non sono di tutti, devono essere gestiti perché ciascuno ne possa usufruire in maniera onesta, tra virgolette. E qui siamo al tipico sistema complesso che si autoregolamenta, cioè la reputazione di ciascuno gli permette di attingere alla fonte comune se si comporta bene, altrimenti viene espulso dalla comunità. Io credo che questa un po' sia la chiave anche economica di tutto ciò di cui stiamo parlando. Ecco, questo per dare un po' sostanzialmente, vediamo, provo a semplificare, cioè la reputazione del contenuto viene un po' decisa in maniera molto democratica in rete. Esatto. E sulla base di questa reputazione si declina un contenuto economico. Ecco, però non è semplicissimo. Cioè no, diciamo che la reputazione passa dal contenuto al provider, cioè colui che fornisce il contenuto, che via via si dimostra essere sempre corretto. Prendiamo Wikipedia, che è nato dal nulla e che ora nella dimensione della lingua inglese, che è quella estremamente superiore rispetto alla nostra, si attuano dei meccanismi di autoregolamentazione per cui abbiamo più o meno la stessa percentuale di errore che abbiamo sulla britannica. Certo, però ecco, Wikipedia è un po' un mondo a sé, nel senso che noi sappiamo che dietro a Wikipedia ci sono moltissimi editor, ci sono moltissime persone che controllano le notizie, che controllano le voci, ci sono specialisti. Di fatto poi quello a cui assistiamo è a uno scambio di informazioni, vedi anche Twitter, vedi anche quello che succede su Facebook, cioè tutti quanti ci scambiamo link sostanzialmente, esatto, su internet, esatto. Cambiamo informazione. Ragioniamo rete. Poi nessuno va a verificare quello che c'è dentro, nel senso che non si ha il tempo di capire, ma quell'articolo lì dice il vero o no, però continua questa attività frenetica di autoaggiornamento. Ecco, questo è un modello che sta emergendo e che io non giudico, che però fondamentalmente porta a un modo di apprendere anche, che è diverso da quello classico: compro il giornale, so che il giornale è di Confindustria, so che il giornale è il Corriere della Sera, so che c'è un direttore, so che esprime un certo determinato pensiero e per cui posso fidarmi o meno. Su internet è un fenomeno completamente nuovo. Sì, anche se proprio quello che ha descritto è il motivo per cui molti addetti ai lavori, molti esperti dicono che l'editore non potrà tramontare nemmeno con l'epoca internet, perché l'editore è il garante del lettore in definitiva, quindi diciamo ciò è la persona che si è fatta la reputazione tale per cui il lettore sente garantito da ciò che lui pubblica o da ciò che lui comunque mette nei propri siti su cui mette il proprio nome, ecco. Mi piacerebbe sentire anche l'opinione degli ascoltatori, ricordo 824-0024, e poi sul tema l'editore è garante, sì, certamente, poi bisogna capire anche che editore, perché c'è, alcuni editori hanno fatto della qualità e della serietà e dell'autorevolezza, insomma, la loro carta d'identità, poi di fatto ci sono anche altri editori che invece giocano partite politiche. Assolutamente, però il sistema, come quasi tutti diciamo i sistemi complessi che si sanno adattare all'ambiente in cui vivono, praticamente qualunque sistema, chiamiamolo vivente perché è qualcosa di simile a un organismo anche questo, riesce a creare al proprio interno degli anticorpi dal basso che col tempo danno ragione a chi si comporta bene, tra virgolette, rispetto a chi fa delle azioni. Quindi lei sta dicendo, il lettore sostanzialmente sarà il migliore anticorpo, per cui attenzione che esatto. Su internet ci si regola un po' da sé, non ci sono bisogno di interventi esterni o regolamenti esterni, insomma il popolo della rete, questa orrenda espressione, attraverso la reputazione, attraverso insomma i suoi gusti, in un certo senso riequilibra il tutto. Tanto che ci sono appunto, così come è stato dato il Nobel alla Elinor Ostrom, vediamo fiorire dei libri, ne ha parlato anche Nova, se non sbaglio, un sì. mesetto fa, sul punk capitalism di sì. Matt Mason, oppure sul partito dei pirati svedese che ha avuto il 7%, ha mandato Rick Folkvinge al Parlamento di Strasburgo. Diciamo tutti, tra l'altro ricordiamo la tesi di punk e capitalism è i pirati, è una tesi estrema, però i pirati stanno innovando il sistema in qualche modo, cioè in qualche modo saranno loro a costringere il sistema a fare un balzo in avanti, a trovare nuove soluzioni e nuove ricette economiche. Esatto, è questo pensiero strisciante che si sta un po' allargando dovunque e appunto arriva fino al premio Nobel, e in cui tanti studiosi cominciano a porsi il problema, ma dal punto di vista pratico siamo sicuri che la pirateria, lo sharing, la condivisione sia appunto, qualche cosa di negativo? Sia qualcosa davvero negativo? Ci stiamo domandando un po' che fine faranno, ma non tanto a livello commerciale, ma insomma quello che sta succedendo a giornalismo, editoria e musica sono tre mondi completamente rivoluzionati da internet. Abbiamo appena parlato con Eletti, Valerio Eletti, del direttore del Master Yelm della Sapienza di Roma, e stavamo cercando di capire quali sono gli esempi, i modelli di business più innovativi. Però prima abbiamo una domanda di Margherita dalla provincia di Parma. Buongiorno. Buongiorno. La questione è che in realtà dipende dal contenuto. Cioè, io credo che tutti coloro che utilizzano questa ricerca di notizie su internet lo fanno perché si sono veramente un po' stancati di leggere i grandi giornali nazionali che scrivono esattamente come i giornali gratuiti della metropolitana. Beh, mi viene da dire che non si scrivono esattamente le stesse cose, nel senso che i giornali della metropolitana, che peraltro sono anche loro in un momento di grande ripensamento, hanno un format per notizie molto brevi e un'informazione molto dettagliata, ma di carattere televisivo. Quello che stanno cercando di fare poi più o meno bene invece i giornali nazionali è quello di dare un approfondimento, poi può funzionare o meno. Un'altra telefonata da Roma. Benedetto, buongiorno. Buonasera. Io volevo toccare un altro argomento invece, riguardante l'editoria libri, con particolare riferimento all'ambito scientifico universitario. Ah, quello è interessantissimo, ecco. Anche perché noi su Nova ce ne occupiamo molto, anche perché, ecco, in questo caso la rete ha consentito la possibilità di anche qui un'analisi incrociata di reputazione sugli articoli scientifici. Ma giriamo la domanda a Eletti. Insomma, quali sono le prospettive per l'editoria scientifica? Beh, direi che non può più prescindere dall'online. Se prendiamo il riferimento classico, diciamo un paio di riferimenti classici, la Public Library of Science, il PLOS nell'acronimo, è diventato un crocevia fondamentale per la pubblicazione e il controllo il cosiddetto peer review, il controllo fra pari, cioè ogni articolo viene pubblicato solo se passa attraverso un filtro, così come viene per tutte le pubblicazioni scientifiche. In questo caso abbiamo un sito no profit, quindi completamente free, diciamo, ad accesso libero. Che vive però sulle donazioni, così come, per dire, l'open courseware del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, che forse è il più grande deposito di lezioni al mondo, anche questo è free, però è nell'ottica freemium, cioè esatto. Ti do tutta una serie di servizi liberi, e se vuoi quel di più, come per esempio la certificazione di aver fatto un corso, devi pagare oppure devi fare delle che donazioni. Tra l'altro, quindi, questa è anche un po', attenzione, è anche un po' la strada che forse percorreranno i giornali, cioè una parte di informazione gratuita e una parte di informazione a pagamento. Però vorrei, tra l'altro, saluto Enrico Pagliarini che ci ha raggiunto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorrei insomma passare alla terza gamba nel nostro ragionamento, che è la musica. Abbiamo in collegamento Giordano San Giorgi, presidente di Audocop, e sentiamo la scheda. Tra una settimana a Faenza le band si riuniranno per sperimentare con i suoni. È il MEI, un festival che riunisce le etichette musicali indipendenti. A fondarlo è stato Giordano San Giorgi. È docente ai master sulla comunicazione e sullo spettacolo presso tre atenei italiani e ha partecipato all'organizzazione di numerosi eventi musicali, come il 1° maggio Neapolis Festival Gifoni Music. Ma San Giorgi è anche il presidente di Audiocoop, la terza associazione di categoria di discografici italiani indipendenti. Rappresenta il 5% del mercato italiano. Sono 150 le etichette indies presenti con le loro sedi in tutta Italia. Allora, San Giorgi, per la musica è il laboratorio di sperimentazione per eccellenza su internet, ne abbiamo viste di tutti i colori. Adesso si parla molto di musica in streaming, per cui non si sta più neanche, si esce un po' dalla logica della pirateria. Io mi collego a un sito e ascolto online quello che mi pare. sì, no, diciamo che da questo punto di vista io credo che la soluzione, se di soluzione si può parlare in un'innovazione continua come è il rapporto fra internet e la musica, sia quella di fare pagare alla fonte le grandi multinazionali di internet e della telefonia che danno hardware e software per scaricare musica tutto il giorno. La creatività così può essere finanziata e trovare le risorse per riprodursi e rinnovarsi. Non so se sono molto d'accordo loro, però... Ma io credo che loro siano assolutamente contrari, sta di fatto che paradossalmente noi riteniamo che i veri pirati della musica siano coloro i quali danno tutte le strumentazioni per poter scaricare legalmente e illegalmente, sapendolo, in modo gratuito la musica senza che gli autori, gli editori, produttori, artisti, interpreti, esecutori riescano a introitare alcunché. Basterebbe il 4%, come si fa sulla copia privata, di questo fatturato miliardario che fanno queste multinazionali dai primi anni del 2000 grazie alla musica. La musica ha sviluppato internet enormemente e potremmo finanziare le giovani band e i giovani artisti del nostro paese. Tra l'altro, cioè, Enrico Pagliarini è un esperto di jazz. È un, diciamo, appassionato, più che esperto. Cioè, se mi chiedi un cantante famoso faccio fatica. Tu saresti disposto a pagare online? Che cosa sei disposto a pagare tu online? Allora, sicuramente sarei disposto a pagare un abbonamento di pochi euro al mese per ascoltare musica di buona qualità. Però c'è un problema, che l'offerta su internet è molto variegata e molto vasta e la qualità deve essere molto alta, i contenuti devono essere anche, per quanto riguarda la musica, selezionati in modo molto originale, perché altrimenti ci sono molte offerte gratuite che io ascolto tutti i giorni. Però così... Adesso è un periodo in cui ascolto una radio svizzera di musica classica che mi piace moltissimo. Meravigliosa. Ma così tu presupponi l'esistenza di un editore, cioè tu vuoi un editore in rete che selezioni la musica e dici: io mi affido a te, ti do qualche euro, per cui non parliamo di grandissime cifre, quindi ecco i micropagamenti, però... Insomma, pago pretendo. Sono d'accordo, sono convinto che sia importante e necessario che in rete crescano anche le offerte con persone dietro che mettono dell'intelligenza nell'offerta. Adesso stiamo parlando di musica, poi se parliamo di informazione questo è ancora più vero, naturalmente. Ecco, San Giorgi, io ho provato a buttare lì quello che è oggettivamente il grande cambiamento, cioè questi software, questi siti che consentono di trasmettere in streaming, per cui io, fin tanto che sono collegato via internet, ascolto la musica che voglio. Google, non a caso, si è anche lei inserita in questo filone. Questo cambia un po' le carte in gioco. Ma diciamo che da un lato sono d'accordo con quello che si diceva della necessità comunque di fare degli investimenti per proporre delle percorsi originali e unici su internet anche per la musica, per attirare dei piccoli mercati di nicchia e avere qualche risorsa. Quindi segnalo Sold Out, che ad esempio è un sito che cerca di avere dei fan che finanziano progetti musicali, oppure Giamendo, che attraverso la licenza Creative Commons poi si impegna comunque a fare commercializzazione di brani di giovani artisti. Ovviamente il modello iTunes è un modello vincente, però dall'altro io in qualche modo ritengo che, come dire, non si possa impedire la diffusione gratuita di musica su internet continuata in modo, come detto, sia legale che illegale. Da questo punto di vista, quindi, ritengo che debbano essere i fornitori delle strumentazioni che permettono questa diffusione a pagare i contenuti che sanno benissimo esserci dentro e che non pagano. Dall'altro devono essere, credo, supportati tanti tentativi, ad esempio anche quello Downlover, un sito interessante. Abbiamo parlato anche. Esatto, che riesce attraverso la pubblicità a valorizzare i giovani talenti italiani, oppure nella telefonia un aggregatore come Kiver che valorizza le musiche indipendenti italiane all'interno dei telefonini. Diciamo che però alla base c'è un grande business miliardario al quale non arrivano i soldi alla creatività. È come se i grandi distributori discografici di 30 anni fa non avessero pagato il master agli artisti. Chiarissimo. Quindi sono i nuovi distributori online che si trovano tutta la musica del mondo dentro ai loro hardware, software, abbonamenti e non danno una quota a monte a chi gli produce i contenuti. Allora, Gennaro da Napoli ci ha chiamato, vuol tornare sul tema dell'informazione. Buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti, a tutti gli ospiti. Niente, io volevo portare la mia testimonianza un po', perché sono un giornalista, anche un pubblicista iscritto all'Albo regolarmente, e sono il direttore di una testata giornalistica online. La mia testata in pratica si occupa di sport, quindi è una testata sportiva. E niente, io facevo questa riflessione ascoltandovi. È vero che ci sono contenuti diversi, anche se in redazione a me lavorano 8 ragazzi H24, rispetto alle grandi testate, alle grandi firme che comunque sono un esempio, tra virgolette. Noi non siamo dei tra virgolette dei novelli sotto questo punto di vista, perché la maggior parte di noi è iscritta, siamo tutti giornalisti, lavoriamo per questo, non trovando magari uno sbocco verso altre situazioni, abbiamo cercato di trovarci una finestra. E dobbiamo dire che posso dirlo proprio con tanto di veramente orgoglio, di orgoglio. Noi per esempio, certifichiamo le nostre statistiche. Noi abbiamo oltre 5 milioni di contatti unici all'anno, che sono abbastanza, è vero, lei mi dirà... No, io le faccio i complimenti, dica anche il sito del suo giornale. La testata giornalistica online si chiama www.napolisoccer.net. Allora, abbiamo in collegamento Giuseppe Taibi, imprenditore di internet specializzato appunto in software per i telefonini. Per lei una domanda lampo: che cosa sono disposti a pagare gli utenti sui telefonini? Sono disposti a pagare, sicuramente acquistano, per esempio nell'iPhone acquistano software a 99 centesimi, ecco, senza troppi problemi. Ma giochi, che contenuti? A qualunque tipo di contenuti, ma in particolare sicuramente le tre categorie che sono maggiormente gettonate, per così dire, sono i giochi, esatto, e poi quello che si chiama l'entertainment, che è un termine un po' diffuso, e poi la terza categoria sono i libri. Ho capito. Ah, beh, questa è una notizia inaspettata. Stia in attesa, Taibi, che abbiamo un ascoltatore, Gioele da Cremona. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io chiamo per portare, diciamo, la testimonianza di internet in un mondo che apparentemente potrebbe sembrare lontano, che è quello della musica antica. Allora, io sono direttore di un ensemble di musica antica, appunto, a Cremona. E devo dire che l'avvento di internet è stato per noi fondamentale, perché grazie all'apporto di molte biblioteche, di fondi privati anche, che si sono, diciamo, adoperati mettendo il loro materiale online, noi come, diciamo, gruppo che si occupa della riscoperta di un materiale che più o meno dista da noi 350 anni, capita, abbiamo una possibilità di repertorio, di programmi che è terminata, per cui devo dire che per noi che siamo, diciamo, una realtà nel mio caso piccola, un po' di nicchia, però ecco, grazie a internet quindi si scopre anche la musica antica. Grazie Gioele, questa è notevole, Pagliarini. Molto bella. Però dicevo, io ascolto recentemente una radio bellissima di musica classica, è vero che, ma questo è un discorso, insomma, che abbiamo già fatto e faremo anche in futuro, cioè le nicchie stanno esplodendo su internet. Il bello di internet è proprio che le nicchie diventano la coda lunga famosa, eccetera. Ne abbiamo potuto di parlare. Tu domani alle 15:30 di che cosa ci parli? Dunque, domani parleremo di Chrome OS, che è il sistema operativo di Google, che arriverà tra un anno, ma già se ne parla molto. Ieri sera abbiamo seguito la conferenza stampa, molto divertente, che perché i ragazzi di Google arrivano in felpa, maglietta e raccontano cose, insomma, sconvolgenti. Un sistema operativo che ha dei concetti molto nuovi. Parleremo di pagamenti, non solo di micropagamenti, di pagamenti con il cellulare. Ci sono delle novità molto interessanti. C'è chi dice che il prossimo anno assisteremo ad un boom, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di questo strumento, ma non solo, anche in Italia. Poi parleremo di banda larga via radio, cioè dei sistemi alternativi alla DSL, quindi di WiMAX e dei pochi successi che fino ad oggi ha avuto il WiMAX, e parleremo anche di Hyperlan. Domani, poi magari direte anche perché il WiMAX ha avuto pochi successo, sì, perché lì c'è un'antica diatriba, ma ci fanno segnali. Io vorrei ringraziare, quindi ci fanno segnali dalla regia che dobbiamo chiudere. Io ringrazio Francesco Piccinino, Valerio Eletti, Giordano San Giorgio, Giuseppe Taibi. Il nostro tempo è finito, però insomma noi ci sentiamo lunedì alle 16:00.